Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. La cronaca di queste settimane ripropone nuovamente l'eventualità di un intervento sulle pensioni dopo le riforme varate negli ultimi anni. Misure per favorire la flessibilità in uscita, prima di tutto, ma anche sulla scorta delle proposte avanzate dal presidente dell'INPS Tito Boeri, cui finora il governo non ha dato seguito, un possibile intervento sugli importi pensionistici più elevati. Una vicenda che parte da lontano, questa della previdenza, settore che ha assorbe ingenti risorse del bilancio pubblico anche per effetto dell'invecchiamento della popolazione. Una vicenda che vale la pena di ripercorrere. Partiamo dal 1992, quando il governo presieduto da Giuliano Amato vara sull'onda dell'emergenza una prima riforma del nostro sistema pensionistico. Il 30 dicembre 1992 viene approvato dal Parlamento il decreto legislativo numero 503, in attuazione della legge delega chiesta dal governo Amato in luglio. Queste le principali novità della riforma. L'età pensionabile viene gradualmente elevata da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 anni per le donne. Contestualmente viene esteso il periodo contributivo valido per il calcolo della retribuzione pensionabile. Si passa in particolare al sistema di calcolo riferito agli ultimi 10 anni, non più 5, per tutti i lavoratori del settore privato e da 10 a 15 anni per gli autonomi. Per i lavoratori con meno di 15 anni di contribuzione, la pensione viene calcolata sull'intera vita lavorativa. Viene inoltre innalzato da 15 a 20 anni il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione e l'indicizzazione dei trattamenti pensionistici viene ancorato al solo costo della vita, con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ogni anno. Con la riforma del 1992 vengono in tal modo abolite le pensioni baby e viene disposto al tempo stesso per i pensionati il divieto di cumulo al 50% tra redditi da lavoro dipendente e autonomo. Vengono introdotti blocchi temporanei per i trattamenti di anzianità con 35 anni di contribuzione e prende avvio l'equiparazione del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici a quello dei privati. E ora veniamo al 1995, quando il governo tecnico presieduto da Lamberto Dini vara la riforma delle pensioni più importante degli ultimi anni, quella che segna uno spartiacque tra il vecchio e il nuovo sistema. Negli anni 70 il totale della spesa previdenziale in rapporto al prodotto interno lordo era del 9,5%. All'inizio degli anni 90, anche grazie alla presenza del nostro sistema di generose pensioni di anzianità, si era arrivati al 16,6%. La principale novità della riforma Dini è nelle modalità di calcolo per determinare i rendimenti delle pensioni. Per i neoassunti si cominciò ad applicare interamente il sistema contributivo, con esclusivo riferimento alla somma dei versamenti effettuati. Per quanti al 1 gennaio 1996 avessero maturato almeno 18 anni di contribuzione, si continuò ad applicare il vecchio sistema, basato sul calcolo retributivo. Al di sotto dei 18 anni si optò per un sistema misto. Retributivo pro rata per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, contributivo per gli anni successivi. Il superamento dei trattamenti di anzianità venne affidato a un graduale meccanismo di uscita fino al 2008, con una somma di contributi pari ad almeno 35 anni e un'età anagrafica variabile tra i 57 e i 65 anni. Oppure a prescindere dall'età anagrafica in caso di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Dal 1995 altre riforme delle pensioni hanno visto la luce, da quella varata nel 2008 dal governo Berlusconi alla riforma Monti-Fornero del 2011. Ve ne saranno altre? Giriamo la domanda al professor Mauro Marè, docente di Scienza delle Finanze alla Sapienza di Roma e presidente della Società per lo Sviluppo dei Fondi Pensioni del Ministero dell'Economia. Buonasera professore. Buonasera a lei. Buonasera. Allora, qual è il suo punto di vista su questa materia? Penso di sì, diciamo, la materia pensionistica è un argomento, la materia dove uno non dovrebbe parlare tutti i giorni, spaventare o fare annunci, diciamo il vecchio detto che non bisognerebbe muovere o parlare poco, ma detto questo è evidente che ci saranno altre riforme perché il sistema di ripartizione, cioè vuol dire gli attivi pagano per non attivi, certo. Siccome il sistema pensionistico si è dissociato per una serie di ragioni dal mercato del lavoro, perché il mercato del lavoro è com'è, scarsa occupazione, redditi più bassi, e allora c'è un problema di sostenibilità, e cioè gli attivi hanno la forza, i mezzi per pagare le prestazioni di una popolazione vecchia che invecchia, aumenta di numero e vive di più. Certo. Quindi sicuramente qualche altra riforma per rendere il sistema sostenibile o per aumentare l'equità tra le generazioni, il patto generazionale, il contratto, come si dice, no? Andrà fatta. Ecco, però noi vogliamo ragionare anche con lei su un altro aspetto che riguarda il famoso secondo pilastro della previdenza, che in fondo è decollato ma fino a un certo punto nel nostro paese. Che cosa bisogna fare per farlo decollare? Parlo delle pensioni integrative, ad esempio. È una domanda molto giusta, perché l'idea allora tra il 92 e il 95, Amato, Dini, era quella che con la riforma fatta allora, con il contributivo, no? Sì. Il primo pilastro avrebbe garantito una copertura inferiore, si parla tecnicamente di tasso di sostituzione, cioè il prima pensione rispetto allo stipendio. Siccome con la regola contributiva la copertura pubblica sarebbe scesa, il lancio dei fondi pensione e la previdenza complementare, come lei ha detto, avrebbe dovuto integrare, diciamo, prima era l'80% più o meno il grado di copertura, no? Uno andava in pensione con la pensione che era l'80% dell'ultimo stipendio. Siccome in prospettiva l'idea era di che il settore pubblico sarebbe stato in grado di coprire intorno al 60, 65, 70 o anche di meno, dipende poi dalla carriera, questa differenza, questo delta di 15, 20 o più, il compito di coprirlo sarebbe stato assegnato alla previdenza complementare ai fondi pensione. Certo. Qual è il problema? Hanno aderito ancora solo un quarto dei lavoratori italiani, il 26%. Certo, forse ci vorrebbero anche delle forme di agevolazione fiscale. In parte ci sono già, però magari andrebbero potenziate. Assolutamente, anzi, le forme ci sono, ma il governo l'anno scorso ha aumentato la tassazione sui fondi pensione dal 12,5% al 20%, e sulle casse dal 20 al 26, quindi è andato nella direzione opposta, ovviamente dato il vincolo di finanza pubblica e situazione dei conti. Detto questo, tutte le esperienze dimostrano che gli incentivi fiscali sono fondamentali per l'adesione. Un altro argomento posto è che si debba trasformare l'adesione da volontario come adesso in obbligatorio. Adesso i lavoratori sono liberi di scegliere, pensiamo ai fondi che ne so, più grandi, il fondo del settore metalmeccanico oppure dei chimici che sono Cometa, Fonchi e così via. Questi fondi che hanno una grossa presenza aziendale, hanno aziende di medie e grandi dimensioni, una grossa presenza sindacale, hanno un tasso di adesione abbastanza elevato, circa il 60, 70, 80% dei potenziali aderenti ha aderito. Invece in settori come turismo, commercio, edilizia, che sono molto più dispersi, dove le aziende sono più piccole, l'adesione è stata molto piccola. Allora ci sono due strade. Sì. Una, volontaria, fare molta informazione finanziaria, dare gli incentivi. Seconda strada, l'obbligatorietà. Io sono contrario, perché se scegliessimo l'obbligatorietà, che aumenterebbe di molto l'adesione ai fondi pensione, e poi dopo i lavoratori chiederanno una garanzia, come nel caso del settore pubblico. Quindi aggiustiamo un problema e ne creiamo un altro. Ultima parola, cosa è successo all'estero? Questo è interessante. Ecco, Regno Unito, Danimarca, Olanda hanno tentato tutti la strada volontaria, campagne di informazione, incentivi fiscali. La strada ha un po' funzionato, ma anche lì poi non c'era il 90 o 100% degli iscritti. Per cui alcuni di questi paesi, dopo anni di lavoro e di riflessione, hanno deciso di andare per una strada semi-obbligatoria, se non del tutto obbligatoria. Un'ultima domanda, professore, in pochi minuti. E questa è esattamente poi la missione del fondo che lei dirige presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ce lo spieghi in pochi sì, secondi. Non è un fondo, è una società. Esatto. No, lo dico perché noi non gestiamo risorse, non abbiamo nessuna gestione finanziaria, ci mancherebbe, il Ministero dell'Economia e delle Finanze al 51%. Certo. L'obiettivo di MEF è quello di fare informazione finanziaria, di sensibilizzare diciamo la popolazione italiana, in particolar modo i lavoratori, e noi facciamo attività di studio, di convegni, non gestiamo assolutamente risorse, proprio per capire e spiegare l'importanza di avere un secondo pilastro, anche un terzo, cioè di accumulare da soli nella previdenza complementare. Perché? Perché i sistemi pensionistici pubblici sono a ripartizione, come dicevo prima. Certo. Sono legati all'andamento dell'occupazione e al tasso di crescita del reddito. Se nel futuro, come purtroppo noi vediamo, non sarà particolarmente elevato il tasso di crescita o il mercato del lavoro avrà dei problemi, e allora chi può deve via via che lavora, negli anni di lavoro, accumulare un pezzo della sua pensione direttamente, come lo si fa con i fondi pensione. MEF ha proprio questo compito istituzionale di aumentare la consapevolezza, l'informazione, la conoscenza, naturalmente sui benefici e i meriti, ma anche sui problemi, sui difetti che potrebbe avere, per esempio costa troppo, costa poco, serve più concorrenza, no? Potrebbero avere i fondi pensione. Bene, molte grazie professor Marè. Noi salutiamo i nostri ascoltatori con questo passaggio di un film del 2014, Andiamo a quel paese, con Salvatore Ficarra e Valentino Picone, in cui si racconta la storia di due disoccupati che ospitano in casa degli anziani in cambio della loro pensione. Grazie a Luca Cremonese in redazione, Alessandro Chiappini in regia. A casa di mamma con noi ci sarà pure la zia Carmela? No. Anche lei, come la mamma, ha una bella pensione. Ma voi ne avete altri di questi parenti? Eh certo. Benvenuti! Benvenuti, zio Pasquale, prego, da questa parte! Ti devo sposare con zia Lucia, Salvo, ma che sei pazzo? Zia! Ha una pensione per sempre! Questo è un declino morale che deve finire. Quindi a sposarsi devono essere due persone giovani. Salvo, io te lo sto dicendo, se sta cosa si viene a sapere in paese, io per la vergogna me ne vado a Düsseldorf dai miei genitori. Massima riservatezza! Auguri! Auguri! Auguri! In città queste cose non succedono, capito? E allora tornatene in città. In città facciamo rapine, facciamo borseggi, facciamo trattative con lo Stato e ognuno si fa i fatti propri. E non sputare.